Adesso, al di là dello spavento, è stato posto un ordigno davanti al cancello di casa, tra il cancello e l'auto. L'ordigno era posizionato vicino al cancello, ha fatto l'esplosione, ha praticamente distrutto la mia auto e quella di mia figlia che era vicino. È stata un'esplosione molto forte, da quello che riusciamo a capire, in base a quello che hanno detto inizialmente adesso gli artificieri, si trattava di probabilmente 1 chilo di esplosivo usato per fuochi d'artificio, quindi pirotecnico, ordigno rudimentale. Però i danni sono stati ingenti, le macchine sono ovviamente praticamente distrutte. Ero rientrato da una ventina di minuti e l'esplosione è stata un'esplosione molto, molto forte, insomma, al di là dello spavento, però tutto quanto bene. Insomma. Di minacce ne abbiamo ricevute tantissime di varia natura. Il problema adesso è capire un attimino la serietà di queste minacce. L'anno scorso abbiamo trovato sempre questa parte dei proiettili, abbiamo trovato delle persone, la mia scorta ha trovato persone che ci seguivano. Insomma, c'è tutta una serie di episodi che sono stati comunque regolarmente denunciati alla Procura di Roma, alla Procura di Velletri e alla Digos. Diciamo che a parte questo, l'importante è che non sia successo nulla di veramente grave, perché in quel posto è passata 20 minuti prima mia figlia, poi sono passato io, poi sarebbe passato mio figlio, quindi insomma, questa è la cosa un po' più preoccupante.